Ya man huwa bil birri ma'ruf, o colui il quale è conosciuto per mezzo della pietà, wa bil ihsani mawsuf, ed è caratterizzato dalla benevolenza, ma'rufun bila ghaya, egli è conosciuto senza estremo limite, mawsufun bila nihaya, ed è caratterizzato dall'assenza di fine, awwalun qadimun bila ibtida, egli è primo, antico, ma senza inizio, wa akhirun karimun bila intiha, e ultimo, generoso, senza termine, wa ghafara dhunubal muznibina karaman wa hilma, egli perdona le trasgressioni dei trasgressori con indulgenza.